questo mondo immondo, una terra feconda, in questo mondo confuso, un germoglio che spunta, in questo mondo virtuale, un bambino sgradito, in questa terra bruciata, un vecchio pazzo isolato, in questo mondo oscuro, il Cristo tutto ha redento, in questo cosmo infinito, il Verbo si è fatto carne.